Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Questo è chiaro. È chiaro, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che il Papa da un po' di tempo non ci poteva lasciare neanche in questo inizio settimana senza una dichiarazione, possiamo dire, inconsueta in bocca a un Papa, almeno originale, e che sicuramente farà discutere e che sarà interpretata in vari modi. Voi cosa ne pensate? Naturalmente c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, c'è il numero per gli SMS 349-238-6666, però tra poco ne parleremo con il Vaticanista del Sole 24 Ore, perché sono dichiarazioni che sono uscite poco fa e quindi così al volo vorrei capire cosa ne pensate voi e capiremo anche come bisogna interpretarla. Questa sembrerebbe andare, anche questa frase, un po' in contraddizione contro quello che la Chiesa Cattolica ha sempre professato, insomma, di fare figli, di fare anche più figli possibili, però magari è una questione di interpretazione. Vedo già anche vari altri argomenti che vi ho lanciato oggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, state scrivendo i vostri messaggi, però ci sono molti argomenti di cui parleremo, naturalmente non solo questo. Ci occuperemo anche di quello che ha detto sulla flessibilità, l'ennesima volta che si usa questo termine, l'Unione Europea per quanto riguarda l'Italia. Parleremo anche della polemica su sicurezza e privacy, che adesso è un argomento molto molto caldo in un momento in cui è così alto l'allarme terrorismo. Parleremo anche di cinema, ci sarà anche, dovremo raggiungere l'onorevole Civati, visto questa altissima tensione dentro il Partito Democratico. Intanto però, come sempre, lo sapete all'inizio, vi faccio un racconto più o meno esaustivo, direi esaustivo, della giornata. L'allarme terrorismo, il ministro Gentiloni dice in Europa la minaccia è seria, domani in Consiglio dei Ministri si discuterà un nuovo pacchetto di misure. Scontro nel PD, Italicum a rischio, la minoranza avverte, non votiamo il patto con Berlusconi. L'Unione Europea le riforme, più flessibilità per l'Italia, ma le riforme diventino realtà, questo è il monito di Bruxelles al governo. Yemen, il paese sull'orlo del golpe, nessuno controlla la capitale, ma l'allarme sembra rientrato. Cinema Vergine Giurata è l'unico film italiano in concorso a Berlino, è l'opera prima di Laura Bispori. Lindsay Vonn batte se stessa nel supergigante di Cortina e festeggia con il compagno Tiger Woods. Calcio, la crisi del Milan, oggi i giocatori e Inzaghi convocati a rapporto da Galliani. Partiamo quindi naturalmente dall'allarme terrorismo, dal vertice dei ministri degli esteri. Oggi a Bruxelles è emerso che esiste in Europa una minaccia decisamente seria e concreta, ma non è stato ancora raggiunto un accordo sulle misure preventive. Quella del terrorismo islamico per i paesi europei è una minaccia seria. La conferma arriva anche dai ministri degli esteri dei 28 riuniti a Bruxelles dopo gli attentati di Parigi per definire nuove strategie con cui affrontarla. Dal vertice è arrivata una sollecitazione politica nei confronti del Parlamento europeo perché sblocchi la direttiva che permetterebbe lo scambio di dati sui passeggeri dei voli aerei. Nell'occasione il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, De Kerckhove, ha fatto il punto sul fenomeno dei foreign fighters, una minaccia che riguarda l'insieme dei paesi europei, ha spiegato il ministro degli esteri italiano Gentiloni. De Kerckhove ha parlato di un numero di foreign fighters che secondo le loro valutazioni oscilla tra 3.000 e 5.000 per l'insieme dei paesi europei, quindi un numero molto consistente. I ministri degli esteri hanno anche concordato con l'alto rappresentante europeo per gli affari esteri, Federica Mogherini, sia sulla necessità di una maggiore collaborazione con il mondo arabo, sia su quella di intensificare lo scambio di informazioni fra i paesi dell'Unione, anche in una materia delicata come quella della sicurezza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte italiano il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, ha anticipato che ci saranno altre espulsioni di persone sospette nel nostro paese. La lotta armata diventa una via di riscatto personale. È col dramma quotidiano di chi non si è integrato che Gelasi Riad, musulmano estremista, spiegava già negli anni scorsi ai carabinieri del ROS la scelta del jihad. E la sua filosofia è la stessa, temono gli investigatori, che ha portato già 59 foreign fighters a partire dall'Italia per la Siria e molti altri altri circa 300 si calcola, a radicalizzarsi al seguito di reclutatori o attraverso il web. È la pattuglia che ora viene tenuta sotto stretto controllo, un network difficile da ricostruire ma che avvicina ad esempio il genovese Del Nevo, dato per morto nelle trincee di Damasco, con la Sharia 4 del Belgio, la cellula responsabile dell'attacco di Verviers. Per il rientro in Italia, invece, a detta del procuratore nazionale antimafia, è soprattutto il napoletano una delle principali porte d'ingresso degli aspiranti terroristi, qui dove possono contare su una rete che riesce a procurar loro armi, soldi e soprattutto documenti contraffatti, come era il passaporto del pakistano fermato a Fiumicino dopo aver provato ad imbarcarsi con volo EasyJet. L'uomo che l'anno scorso aveva fatto domanda di asilo politico è stato poi rilasciato, ma questo episodio comunque ha fatto alzare ulteriormente l'allerta negli scali. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, domani il Consiglio dei Ministri ha annunciato un pacchetto di misure per contrastare il terrorismo, tra cui pene fino a 10 anni per i foreign fighters e ritiro del passaporto per i sospetti. E a proposito della vicenda delle due giovani volontarie italiane liberate dopo essere state rapite in Siria e delle polemiche su un presunto riscatto milionario, il presidente del COPASI, cioè del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, Giacomo Stucchi, parlando dell'ipotesi, ha detto: contropartite ci sono sempre quando uno riesce a liberare ostaggi, ma non sempre sono di tipo economico. Questo il suo commento. La cifra di 12 milioni di euro circolata, aggiunto, mi sembra esagerata, se fosse vera sarebbe inaccettabile. Intanto in Yemen, dopo l'assalto al palazzo presidenziale di Sana'a, che la ministra dell'informazione ha definito senza mezzi termini un tentativo di colpo di Stato, la dichiarazione di un cessate il fuoco in Yemen ha fermato i combattimenti scoppiati nella capitale tra le milizie sciite Houthi e le guardie presidenziali. Adriana Fracchi ha raggiunto l'ambasciatore italiano in Yemen, Luciano Galli. E dalle 4:30 del pomeriggio, ora locale, è intervenuta una tregua tra le parti in causa, cioè da una parte l'etnia di confessione sciita, che sono gli Houthi, che detengono de facto il controllo della capitale e di vaste aree del paese, e dall'altra il governo rappresentato dal ministro della difesa e dal ministro degli interni. La tregua regge tuttora, infatti non si sentono più i colpi di artiglieria pesante che da stamattina martellavano la capitale, e quello che non è ancora chiaro è quali siano i contenuti di questa tregua. Posso immaginare che gli Houthi abbiano richiesto delle concessioni politiche al governo centrale, si siano dati un tempo accettabile per una replica, e in dipendenza di questa reazione governativa poi assisteremo agli sviluppi politici e militari del caso. In Niger poi almeno 45 chiese sono state date alle fiamme durante le proteste contro la pubblicazione delle caricature di Maometto da parte del settimanale Charlie Hebdo. Lo rende noto il governo di Niamey, che conferma che i morti nelle violenze sono almeno 10 e che ha indetto per le vittime 3 giorni di lutto. Andiamo sulle notizie italiane con la politica, che è dominata dalle forti tensioni nel PD. Tira aria di scontro finale, ma nel PD non è una novità. Stavolta oggetto delle critiche l'Italicum, all'indomani di un altro dissidio, quello dell'addio di Sergio Cofferati. Matteo Renzi convoca i senatori Dem, la minoranza contesta i capilista bloccati chiesti da Silvio Berlusconi, così Stefano Fassina. Dobbiamo stare sul merito. Sull'Italicum c'è un punto a mio avviso decisivo che riguarda i capilista bloccati, che non va. Si consegnano alle segreterie dei partiti e non ai cittadini la scelta dei 2/3 dell'unica assemblea elettiva che rimane. Il premier è furioso, parla di critiche ingiuste e ingenerose. Non si può usare un gruppo minoritario come un partito nel partito. Le richieste della minoranza sono state accolte sulle soglie, sull'alternanza di genere, sulle liste bloccate. Non ci sono spazi per soluzioni alternative. E il capogruppo PD a Palazzo Madama, Luigi Zanda, avverte che i tempi sulla legge elettorale saranno rispettati. È una legge che deve essere approvata da altri gruppi oltre che dal nostro. In tutto questo Silvio Berlusconi si è detto ottimista sull'elezione del capo dello Stato, una dichiarazione che conferma ancora una volta la tenuta del patto del Nazareno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è in programma proprio per domani mattina, intorno alle 9, un incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. La riunione si tiene proprio alla vigilia delle votazioni in Senato della legge elettorale in vista delle votazioni per il futuro Presidente della Repubblica. Con questo magari parleremo più tardi, se riusciamo a raggiungere Pippo Civati. Poi le riforme, l'Europa, Bruxelles concede credito all'Italia con una maggiore flessibilità, ma in cambio chiede delle riforme concrete. Di questo però parleremo tra poco. Ritorniamo all'estero. In Argentina è stato trovato morto, ucciso da un colpo di pistola alla testa, il procuratore argentino Alberto Nisman, che oggi avrebbe dovuto presentare in Parlamento i documenti con cui accusava la presidente argentina Cristina Kirchner di aver negoziato in segreto l'impunità per gli iraniani imputati per l'attentato contro l'associazione ebraica Amia nel 94. Gli inquirenti ipotizzano per il momento il suicidio. Cronaca, Mafia Capitale, siamo di nuovo in Italia, pubblicate le motivazioni della sentenza che ha negato la scarcerazione a 14 arrestati, durissima la valutazione del Tribunale del Riesame sull'azienda municipale romana AMA, c'è corruzione in tutti gli appalti. Salvatore Buzzi, il braccio destro di Massimo Carminati, resta in prigione perché rappresenta una concreta minaccia per le istituzioni. A scriverlo i giudici del Tribunale del Riesame, nelle motivazioni con cui hanno respinto la richiesta di scarcerazione del RAS delle cooperative romane, spiegando che è pericoloso per la società a tutti i livelli. È palese, scrivono i magistrati, la sua capacità di infiltrazione nel settore politico, imprenditoriale, economico, attraverso la complicità di Carminati, del quale sfrutta la pregressa fama criminale. Il Riesame ha poi disposto i domiciliari per l'ex direttore generale dell'AMA Giovanni Fiscon, sul quale, spiegano i giudici, sussistono dubbi in ordine al riconoscimento dell'aggravante mafiosa. Sulla situazione dell'azienda municipale ambientale di Roma tranciane il giudizio del Riesame. Nell'AMA, si legge, il fenomeno corruttivo ha raggiunto la massima espressione inquinando tutte le gare di appalto. Proprio sul dilagare della corruzione nel nostro paese è tornato il ministro della giustizia Andrea Orlando nella sua relazione annuale alla Camera. Particolarmente sentita l'esigenza di un efficace contrasto alla corruzione, fenomeno criminale che le inchieste giudiziarie dimostrano aver raggiunto dimensioni intollerabili, anche per il suo intreccio con strutture organizzate di tipo mafioso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un anno fa l'alluvione, vi ricordate, del Modenese, una falla negli argini del fiume Secchia mandò sott'acqua i comuni della Bassa, già colpiti anche dal terremoto. Un uomo perse la vita mentre aiutava i concittadini, centinaia le aziende, le case danneggiate. Tra i comuni più colpiti c'è Bonporto. Servono almeno altri 100 milioni per la sicurezza degli argini, avverte il sindaco Alberto Borghi. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. Un anno dopo, nonostante ci siano ancora tante cose da fare, abbiamo risultati molto positivi. Lei dice che avete bisogno di più risorse per il discorso degli argini. Esattamente, i 210 milioni, 80 sono destinati alle imprese, 50 ai privati, quello che rimane agli argini. È chiaro che non sono sufficienti per mettere in completa sicurezza il nodo idraulico, interventi che vanno per un totale di oltre 160 milioni di euro. Noi speriamo veramente che il governo metta a disposizione i fondi per gli sesto idrogeologico in Italia, perché sarà necessario andare a portare a casa le risorse che ancora mancano per dare veramente la completa attuazione dei lavori previsti. Sindaco, fino ad ora lei ci sa dire più o meno a quanto ammonta la richiesta di risarcimento che vi è stata presentata? Sui privati siamo per buon porto ai 7 milioni di euro, ne abbiamo già erogati 1 milione e 2. Sulle imprese, circa 700 imprese alluvionate in tutta l'area, abbiamo stimato a livello regionale 80 milioni di euro, probabilmente saranno meno perché molti erano anche assicurati. Abbiamo sollecitato più volte a presentarci queste richieste perché non possiamo permetterci di sprecare denaro pubblico. Spostiamoci sugli spettacoli, a cominciare dal cinema. Vergine Giurata è l'unico film italiano in concorso alla 65esima edizione del Festival di Berlino, un'opera prima di una regista di cui parleremo più tardi. Poi per la musica esce, a distanza di 5 anni da Elettra, dall'ultimo successo, Carmen Consoli, da domani il nuovo album L'abitudine di tornare. Poi per lo sport, lo sci, Lindsey Vonn, la statunitense, batte se stessa nel super gigante di Cortina e festeggia con il compagno Tiger Woods, re del golf, il record di 63 vittorie in Coppa del Mondo. E con lo sport direi che potremo per il momento salutarci qui. Ci troviamo tra pochissimo dopo gli aggiornamenti per chi viaggia. Vi ricordo, parleremo prima di tutto delle ultime dichiarazioni del Papa, che sicuramente faranno discutere. Vediamo come un vaticanista, per esempio, intende interpretarle. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme immediatamente. Voi potete continuare a mandare i vostri messaggi, gli sms al 349-238-6666, 349-238-6666, oppure come sempre lì la pagina Facebook Effetto Notte per voi. A proposito, potete commentare oggi delle ultime dichiarazioni del Papa, di cui parleremo tra pochissimo, dell'equilibrio difficile da raggiungere tra sicurezza e privacy, anche di questo ci occuperemo più tardi, e anche del caos dentro il PD. Però intanto vi racconto, vi risintetizzo le notizie principali. Ultimatum Renzi alla minoranza sull'Italicum, chiudiamo domani, braccio di ferro al Senato, domani l'incontro tra Renzi e Berlusconi. Stretta dell'Unione Europea contro il terrorismo, domani in Consiglio dei Ministri si discuteranno le nuove misure. Il ministro Gentiloni dice: le minacce sono serie, ma ci vuole la sicurezza senza rinunciare alla libertà. In Niger bruciate 45 chiese per protestare contro le vignette di Charlie Hebdo. E poi il ministro della Giustizia Orlando che dice: la corruzione in Italia ha dimensioni intollerabili. Moscovici, il commissario europeo all'Italia, flessibilità sì, ma bisogna rispettare gli impegni. E poi il giallo in Argentina, morto il procuratore che accusava la presidente Kirchner, sarebbe un suicidio. E il Papa che dice: ai corrotti bisognerebbe dare un calcio dove non batte il sole. E poi i cattolici dice: non siamo conigli, la paternità deve essere responsabile. E di queste ultime uscite del Papa ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberto, ciao a te, ciao a tutti. Senti, come dice per esempio un ascoltatore fra i tanti messaggi che sono arrivati, che dice: sta picconando il Papa da dentro le gerarchie usurate di una chiesa troppo conservatrice, è uno scorretto di cuore e sa che gli steccati formali sono tumori odiosi nelle morali correnti, al posto della statura dei meravigliosi preti di strada, e fa un elenco. Tu che ne pensi? Beh, insomma, diciamo che sì, tutti i giorni il Papa dà esempi su questa linea, diciamo, peraltro ogni tanto diciamo sorprende, non è che diciamo vuol cambiare tutto, poi ribadisce che quali sono i capisaldi, ma oggi per esempio questa dichiarazione che ha fatto in aereo dalle Filippine a Roma, quando ha detto, ha invitato i cattolici, dice: non facciano figli come conigli, facciano figli ma non come conigli, non è che per essere bravi cattolici dobbiamo fare tanti figli. Ha detto, peraltro ha fatto un esempio, dice: tre secondo lui è diciamo, il numero ottimale per mantenere un equilibrio tra la popolazione, perché cresca sempre. Però dice: c'è stato per esempio il caso di una donna, mi è stato chiesto, che faceva l'ottavo figlio, di cui sette parti precedenti erano stati tutti cesari, quindi è un irresponsabile, e l'ha detto con maniera molto chiara. Quindi ora questo naturalmente detto da un medico forse non è una cosa strana, ma detto da un papa, specialmente rievocando la enciclica di Paolo VI Mane Vitae, che insomma una cosa che risale molti anni fa, ma che aprì un dibattito molto profondo dentro la Chiesa Cattolica, dentro i cattolici, anche quelli di base, farà scalpore sicuramente, specie in questi giorni in cui ci sono gli scontri sulla storia delle famiglie. Ora non voglio riagganciarmi, è che il Papa sì, in particolare a Milano, l'Expo, esatto, a quel convegno di Milano, dove peraltro insomma tutto sia stato meno che un convegno pacifico, perché i contestavano sono stati maltrattati, ma insomma, questa è una mia opinione personale. Dico, il Papa sicuramente da domani, dopodomani sarà attaccato, perché allora i figli. Lui ha detto una cosa molto, diciamo, normale secondo me, e ha detto una cosa corretta, cioè i figli vanno educati, e quindi facendone tanti e facendoli giusto per il gusto li perdi di vista, insomma. Perdi di vista, non ha senso. Questa è la sua opinione, però questa non è dottrina, non sta emanando, diciamo, un'enciclica, sta dicendo quello che pensa, però lo dice da Papa. Ma si conferma che è un Papa un po' controcorrente? Finora, insomma. Insomma, sorprende anche quelli che credono di essere tutta la vita controcorrente, nel senso sorprende quotidianamente questa frase di oggi, come quella del pugno, peraltro, ha sorpreso sia, infatti non è un caso che è stato un po' criticato sia dall'ultradestra che dall'ultrasinistra. Senti, ma anche il calcio diversi. Dove non batte mai il sole, perché per i corrotti. Bella quella, questa sì, questa è un'immagine fantastica, nel senso che lui ha detto tentarono di corrompere dei funzionari cooperativi dicendo: ti facciamo avere dei contributi, però poi facciamo a metà. Cioè, là potevo insultarli, dargli un calcio nel sedere oppure fare lo scemo e far finta di non aver capito. Dice: scelsi la terza strada. E quindi, tra l'altro, un aneddoto molto carino che. Questo insieme a quello dei figli e dei conigli è stato un po' quello che ha caratterizzato un po' la conferenza stampa, ma ha parlato di altre cose anche molto, molto tante, la corruzione per esempio, è tornato a parlare della corruzione, ha parlato della Cina, ha parlato dei viaggi, farà altri tre viaggi internazionali quest'anno in Africa, in Sud America, negli Stati Uniti, tante cose messe tutte in fila, è insomma, un piatto molto ricco. E così abbiamo avuto anche oggi la nostra dose papale, grazie a Carlo Marroni che ci ha fatto da esegeta. Ciao Carlo. Ciao. Europa 24 notte. E adesso subito iniziamo con lo spazio europeo, perché il commissario europeo Moscovici agli affari economici ha detto va bene la flessibilità, ma il governo italiano rispetti gli impegni sul deficit e vada avanti con le riforme. Quanto eventuali sanzioni per Moscovici sarebbe una sconfitta. Una concessione ma anche un monito. Va bene la flessibilità, ma l'Italia rispetti gli impegni. Questo in sostanza quanto espresso dal commissario UE agli affari economici Pierre Moscovici oggi a Bruxelles. Una buona notizia per il nostro paese, che finalmente potrà godere di un certo margine di azione nel bilancio pubblico per poter contrastare la recessione e avviare le riforme strutturali che spingano la crescita. La cosiddetta nuova flessibilità, quella svolta impressa qualche giorno fa dall'Europa, in base alla quale verrà concesso più tempo per ridurre debito e deficit se un paese saprà dimostrare che le riforme avranno impatto positivo nel medio termine. Se saprà dimostrarlo, dunque, su questo Moscovici è stato chiaro: il governo dovrà accelerare sulle riforme, da quelle istituzionali alla giustizia, dal mercato del lavoro alla fiscalità alla pubblica amministrazione. Riforme necessarie per uscire da anni di crescita asfittica e per riattivare gli investimenti. La loro messa in opera è essenziale, ha detto il commissario, ricordando quali saranno i prossimi passaggi. Questa settimana dovranno arrivare le informazioni sull'analisi economica e di bilancio in Italia, mentre entro fine mese ci sarà una nuova missione tecnica a Roma in vista del giudizio aggiornato che sarà pubblicato su tutti i Paesi membri con le previsioni economiche d'inverno il 5 febbraio. La deviazione temporanea però non dovrà eccedere lo 0,5% del PIL, fatto salvo che entro 4 anni gli obiettivi di medio termine vanno rispettati e che questi allentamenti del patto di stabilità sono concessi a Paesi sotto controllo preventivo e non sotto quello correttivo. Insomma, ha spiegato Pierre Moscovici, la priorità nuova è favorire gli investimenti. Le riforme però, come si diceva, devono andare avanti e devono essere rafforzate, ma deve essere anche assicurata la loro attuazione efficace e rapida. E che succederà se il governo italiano non dovesse rispettare i diktat europei? Bruxelles risponderà, come al solito, con la carta delle sanzioni, che però, spiega Moscovici, sono sempre una sconfitta. Lo scopo della Commissione non è punire, ma convincere. E vogliamo avere un dialogo costruttivo con l'esecutivo di Matteo Renzi. Ma secondo il commissario UE agli affari economici, il governo italiano ha una vera volontà di riforma e la Commissione europea vuole sostenere i suoi sforzi. Una vittoria dunque per Matteo Renzi, almeno per ora. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E come prima chiedevo un'interpretazione esegetica a Carlo Marroni sulle ultime originali frasi del Papa, chiedo ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, se il continuo ritornare di questi termini, patto di stabilità, flessibilità, riforme, però dovete fare le riforme, va bene con la flessibilità, ma mi raccomando andate avanti, se dietro c'è qualcosa di nuovo o è un rito, che un mantra che si ripete ogni tot. Caro Alberto, ciao. Buonasera a tutti e ciao. Beh, è un po' un mantra, sì, effettivamente, però è un mantra che ha consentito un po' di scongelamento rispetto, lo ricorderai, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, il talebanismo sul rigore dei conti effettivamente non è più espresso nei termini con cui si esprimeva anche solo 6 mesi fa, un anno fa, da parte della Merkel e di tutti i suoi seguaci, che sono numerosi per la verità nei paesi europei. Adesso qualcosa è accaduto, c'è questa nuova retorica della flessibilità in Europa, ma è appunto una nuova retorica e rischia di essere tale, perché significa che abbiamo maggiori margini di gestione dei conti pubblici, però è anche vero che bisogna avere, affiancare a questa, una notevole virtuosità di comportamenti, e soprattutto, per essere pratici, bisogna che prima al 5 febbraio, quando ci saranno i nuovi dati macroeconomici, si è chiarita definitivamente una querelle che per ora è un po' sotto traccia, ma che vede confrontarsi l'Italia e l'Europa. L'Europa contesta che la nostra correzione di bilancio sia pari allo 0,3% del deficit e dice che l'abbiamo corretto per solo lo 0,1%. E quindi, se rimanesse confermata questa linea di tendenza, vorrebbe dire che dovremmo fare una correzione aggiuntiva pari almeno allo 0,15% per arrivare a quello 0,25%, che sarebbe l'oggetto appunto della nuova concezione della flessibilità dei bilanci. E comunque si tratterebbe di un 3 miliardi più o meno da ritrovare ex novo, e questo non sarebbe particolarmente adatto in questo momento in cui qualche refolo di ripresa sta arrivando. Al prossimo aggiornamento allora, Alberto Rioli. Grazie Alberto. Ciao, buona continuazione. Ora vedevo Tina che scrive: ricordiamo proprio del Papa che è gesuita, ha vissuto la strada di un povero paese e meno studioso e spirituale di altri, più pragmatico di altri. Davide da Mestre: cavolo, ma il Papa ha cinque fratelli, forse con un paio litigato di brutto. Dice Fabio da Milano: il Papa e la Chiesa non sanno quanto costa un figlio, mi sarebbe piaciuto una famiglia numerosa con tanti figli, ma le risorse e la crisi attuale non lo permettono. E con questo desiderio rimasto sospeso, questo rammarico, come chiamarlo, vi invito a continuare se volete a fare i vostri commenti attraverso gli sms al 349-238-6666 e come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco sempre con voi Roberta Giordano. Mi ero perso un po' nei vostri messaggi che state scrivendo su vari argomenti, sia sul Papa ma anche sulla questione del difficile equilibrio tra sicurezza e privacy. Sapete che ritorna ogni volta che il mondo, parte del mondo, insomma, viene sconvolto per le ripercussioni in realtà poi in tutto il mondo da attacchi terroristici. Ancora sul Papa, Luca dice: niente da dire, in gamba. E poi altri messaggi più o meno di questo tipo. E poi invece sul caos nel PD ci sono dei messaggi anche abbastanza sagaci, però vi ricordo c'è la pagina Facebook Effetto Notte per i vostri commenti sui vari argomenti di cui vi parlo stasera, e c'è anche sempre il numero per i messaggi 349-238-6666. Vi ricordo intanto le notizie principali. L'allarme terrorismo, il ministro Gentiloni dice: in Europa la minaccia è seria, domani in Consiglio dei Ministri si discuterà un nuovo pacchetto di misure. Scontro nel PD, Italicum a rischio, la minoranza avverte: non votiamo il patto con Berlusconi. L'Unione Europea e le riforme, più flessibilità per l'Italia, per le riforme però diventano realtà. Questo è il monito di Bruxelles al governo, ne abbiamo appena parlato. Yemen, il paese sull'orlo del golpe. Cinema Vergine Giurata è l'unico film italiano in concorso a Berlino, è l'opera prima di Laura Bispori. Lo sci, Lindsay Vonn batte se stessa nel super gigante di Cortina e festeggia con il compagno Tiger Woods, re del golf, il record di 63 vittorie in Coppa del Mondo. E per quanto riguarda il calcio, la crisi del Milan, oggi i giocatori Inzaghi sono stati convocati a rapporto da Galliani. Adesso invece parliamo dell'argomento che ha a che fare con gli attentati che ci sono stati nei giorni scorsi, con le tragiche ripercussioni, gli attentati di Parigi, la retata poi la scorsa settimana contro una cellula jihadista in Belgio. I ministri degli esteri dell'Unione Europea cercano di serrare un po' le file per dare una risposta unitaria alla minaccia jihadista in Europa. E oggi la riunione di Bruxelles, la numero uno della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha detto chiaramente che occorre rafforzare la cooperazione sia all'interno del blocco europeo, con uno scambio di informazioni fra paesi e il lavoro comune tra ministri degli interni e dell'estero, sia collaborando con i paesi del mondo arabo. Il provvedimento più importante sul tavolo dei 28 ministri riguardava le norme sulla banca dati di informazioni sui passeggeri dei voli aerei, il cosiddetto PNR, che sta per Passenger Name Record. Però adesso ci facciamo spiegare meglio da Giuseppe Busia, che saluto. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti. Segretario generale dell'autorità garante della privacy. Prima faccio sentire questo passaggio di oggi fra i vari del ministro degli esteri Gentiloni a proposito appunto dell'equilibrio che si deve trovare tra sicurezza e privacy. Oggi senz'altro ci sarà un'importante presa di posizione politica sul provvedimento più rilevante, che è quello che riguarda i passeggeri delle compagnie aeree. Io penso che in alcuni mesi la questione si sbloccherà nel Parlamento europeo. C'è un equilibrio delicato da trovare tra privacy e sicurezza, ma non c'è dubbio che oggi dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza senza rinunciare alle libertà europee. Ecco, questo ha detto Gentiloni, Giuseppe Busia, perché sempre, no, torna questa necessità di far sapere che all'opinione pubblica è necessario stringere un po' la vite sulla sicurezza, e che effettivamente questo deve avere la prevalenza rispetto alla privacy, anche se qualcuno su questo dice in realtà, vediamo se ritrovo quel messaggio, in realtà è una cosa che già i governi fanno, prima la libertà, dice Giorgio, niente scuse, i mezzi sono altri e diciamocela tutta, possono di fatto essere attivati senza domandare, senza che nessuno se ne accorga. Quello che dice il ministro attiene alla comunicazione. E poi Elena dice: penso che la frase del ministro sia scontata, quell'affermazione la possiamo fare noi mentre lui ci deve dare la soluzione. Intanto spieghiamo, Busia, che cos'è questo PNR effettivamente. Allora, il PNR sono appunto una banca dati che contiene tutti questi PNR, che sono i dati, come si diceva, sui voli che si fanno, sulle prenotazioni, ma anche alcuni dati più delicati, quindi sia c'è l'anagrafica, i cellulari, le email, tutti i recapiti e i dati anche sulla prenotazione che noi diamo alle compagnie aeree, sia anche dati per esempio se qualcuno ha prenotato per nostro conto, oppure noi abbiamo viaggiato insieme a un'altra persona chiedendo di prenotando insieme o dichiarando di viaggiare insieme, quindi una serie di dati di questo tipo, sia dati anche sulla salute per chi per esempio ha chiesto un'assistenza per salire a bordo, per avere dei pasti particolari e via dicendo. Sono dati che sembrerebbero, detta dal di fuori, quasi insignificanti, e che importa, io che non sono un terrorista, se sanno dove sono andato, in realtà sono una serie di dati, ripeto, l'aver viaggiato insieme a una persona o un'altra, che possono in certi contesti avere un rilievo. Ma al di là di questo, la cosa che è importante probabilmente sottolineare è che tutta la normativa sulla protezione dei dati è una normativa che bilancia le diverse esigenze, quindi bilancia già le esigenze di sicurezza e le esigenze di protezione dati, per cui probabilmente la prima cosa da dire è che questo equilibrio è un equilibrio che bisogna mantenere, non facendosi prendere dall'emozione di fatti tragici come quelli degli ultimi giorni o delle ultime settimane, perché fino a 3 mesi fa l'emozione era tutta in un altro senso e c'era una grande indignazione generale per il controllo della NSA, dello spionaggio con lo strascico su tutte le comunicazioni, per quello che ha denunciato Snowden, perché ci sentivamo meno liberi, per cui quello che ci vuole quando si decide, si prendono decisioni, queste o altre, è sicuramente equilibrio, calma e non seguire gli istinti del momento. Questa è la prima cosa necessaria per garantire il bilanciamento fra diritti costituzionali, è diritto la sicurezza ovviamente, ed è diritto ovviamente, ed è quello che noi difendiamo per distinguerci dai terroristi, la nostra civiltà di diritti e di libertà, perché se per assurdo, e cosa che evidentemente non si vuol fare, come anche le rassicurazioni del ministro che avete fatto ascoltare poco fa fanno intendere, si controllassero tutte le comunicazioni, si controllassero gli spostamenti, avremo una società non libera in cui ad esempio si controllano anche i giornalisti, si condizionano i giornalisti, e Charlie Hebdo non può sorgere, non può nascere in una civiltà del genere, quindi attenzione a difendere ciò che proteggiamo senza perdere ciò che stiamo proteggendo. Questa è la è molto interessante come ragionamento, Giuseppe, ma una delle cose particolari, per esempio, che dicevo, che volevano controllare, che vorrebbero controllare dei dati tra virgolette sensibili, non so come definirlo anche questo, dei passeggeri, e anche il tipo di menù che hanno scelto. C'è di mezzo forse la questione che a seconda delle religioni uno magari non mangia il maiale, però a uno può anche non piacere, uno può essere anche vegetariano, che cosa può valere il menù scelto? In molti casi possono derivare anche dati sensibili, come dicevo, quelli che questa scelta del pasto può essere data da ragioni religiose, da ragioni sulla salute o semplici ragioni di gusto, dipende. Il fatto è che anche i dati più innocenti, i dati più esterni, sono dati che combinati con altri, la carta di credito, l'aver viaggiato con uno o con l'altro, eccetera, eccetera, possono dire molto della nostra vita privata, perché quello che si fa è cumularli con gli altri. Qui non si vuole dire che non si può o si può, si discute di si può, si fanno, quanto conservarli, troviamo dei bilanciamenti giusti. C'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea che diceva, con riferimento ad altri dati che sembrerebbero a prima vista, sono quelli delle bollette, delle comunicazioni esterne, una sentenza dello scorso anno, dice attenzione a non conservarli troppo, sempre per finalità di tutela della sicurezza, per cui quello che ci vuole è equilibrio. E dall'altra parte, sugli attentatori di Parigi si sapeva tantissimo, si sapeva dove andavano al parco, dove si allenavano, erano stati interrogati, spiati nelle comunicazioni, si sapeva tutto, quindi erano soggetti ultra sorvegliati. Lo si è fatto legittimamente con le leggi attuali di protezione dati, e nonostante si avessero dei dossier altissimi sulla loro rischiosità, poi sono stati messi da parte perché si è detto non ce la facciamo a controllare tutta la gente che sta in queste situazioni. Quindi probabilmente il problema essenziale, almeno in questo caso sicuramente non era, non riesco a raccogliere dati su di loro. Su di loro c'erano dossier altissimi, c'erano condanne, intercettazioni, diciamo sorveglianza come non sarebbe naturalmente possibile per tutti i cittadini, e nonostante questo si è detto vabbè, non ce la facciamo a sorvegliarli. Quindi figuriamoci se importa se io prendo gli gnocchi o le orecchiette. Comunque, chiarissimo Giuseppe Busia, vediamo come si procederà prossimamente, sono cose adesso che mi pare che già domani appunto il Consiglio dei Ministri italiano valuterà alcune misure preventive, e nel caso allora ci aggiorniamo. Grazie Giuseppe Busia. Grazie, buona serata. Ciao Giuseppe. Abbiamo adesso gli aggiornamenti per chi viaggia, poi ci sarà probabilmente l'onorevole Civati. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi vi ricordo con le tensioni all'interno del PD, tra poco ne parleremo con l'onorevole Civati e con Renzi che dà un ultimatum, qui di centro domani bisogna chiudere sulla legge elettorale stretta dell'Unione Europea contro il terrorismo, domani in Consiglio dei Ministri le nuove misure, ne avete sentito, ne abbiamo parlato, bruciate in Niger 45 chiese e lo Yemen sull'orlo del golpe, il Papa che dice nessun pugno ma neppure provocazione, serve la prudenza, e poi le altre dichiarazioni abbastanza originali di cui abbiamo parlato. Moscovici, commissario europeo agli affari economici, che dice all'Italia flessibilità sì, ma bisogna rispettare gli impegni. Tante volte ho avuto l'impressione che Renzi facesse e faccia lo struzzo. Questo è il senatore Gotor del PD che ha l'impressione che Renzi faccia lo struzzo. Insomma, scontro finale nel PD, potrebbe essere questo il titolo, qualcuno già l'ha dato, un po' l'aria del colossal apocalittico. Non so se l'onorevole Giuseppe Pippo Civati preferisce scontro finale nel PD o resa nei conti tra i democratici. Cosa preferisce, onorevole Civati? Io preferirei votare una legge elettorale con tutto il PD che si unisce. Adesso mi scusi ma passa un motorino. Prego. Dicevo che vorrei votare una legge elettorale con calma, senza perdere tempo, ma nemmeno senza avere questa fretta così precipitosa. Noi alla Camera stiamo votando peraltro la riforma della Costituzione a rotta di collo, perché bisogna finire tutto prima che di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Mi sembra una forzatura che non aiuta al clima di serenità invece che deve precedere una decisione così importante. Non so se è uno scontro tra struzzi e gufi, perché abbiamo aggiunto lo struzzo al già ricco patrimonio faunistico del Partito Democratico, però forse tutti potrebbero usare un po' di più il buon senso, ecco, vorrei dirla così. Non vorrei nemmeno che fosse lo stesso Renzi a volere precipitare delle cose, perché alla fine il pensiero di andare a votare a lui non è mai passato di mente, secondo me. Tra l'altro lei, Civati, mi pare abbia detto che se si dovesse andare a elezioni a primavera lei non si candiderà nel PD, quindi lo spettro della scissione si fa un po' più carnoso? Nel senso... Ma guardi, io non ho mai parlato di scissione, perché a parte che me ne andrei praticamente solo io dal gruppo parlamentare, come si dimostra anche nella vicenda di oggi, perché sulla Costituzione l'unica voce in dissenso è stata la mia. Lo dico con dispiacere ovviamente, perché di essere da soli in queste battaglie complicate non è mai né bello né forse così lineare, no? Tutti la fanno molto facile, poi quando si trova in un gruppo di persone a essere in dissenso non è così semplice interpretare il ruolo. Ma le dico che andrei via da solo, nel senso che per me non è un tentativo di fermare nessun altro o di esprimere o di fare un gioco tattico. Per me c'è un problema, io non posso fare una campagna elettorale in cui non condivido il programma. Se Renzi insiste sulle note di questo autunno, di questi ultimi giorni, io sono troppo lontano da lui per essere convincente come suo candidato, come candidato del PD. Lo dico perché ci si capisca, anche non c'è una battaglia per il potere da parte mia, anzi sarei uno dei pochi che lascia l'area di governo per andare a fare un'altra cosa. Insomma, quindi no, continua... di solito il movimento è contrario, no? L'area di governo attrae, come è successo anche infatti recentemente, molti esponenti politici. Però uno che se n'è andato, anche se poi vari all'interno del PD dicono beh, se te ne sei andato dal partito adesso dimettiti da europarlamentare, è Sergio Cofferati, che sapete ha denunciato durante le primarie in Liguria, dove ha vinto la sua avversaria Paita, Raffaella Paita, ha detto ci sono stati dei brogli. Ma sentiamo, era proprio qui effetto note all'indomani di queste primarie, sentiamo che cosa ha detto in breve. Ho detto subito che eravamo di fronte a uno cambiamento delle regole e dei comportamenti delle persone che partecipano normalmente alle elezioni primarie. Poi, come avete visto, il risultato complessivo, la partecipazione è stata alta, ma viziata da due fenomeni negativi. Uno riguarda il voto organizzato del centrodestra e l'altro riguarda il voto organizzato ed eterodiretto di nuclei consistenti di stranieri. Civati, Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista Sinistra Europea, dopo questo strappo di Sergio Cofferati ha detto questa è l'occasione per creare un laboratorio proprio dal fatto della Liguria in cui tutte le anime della sinistra, politica, sociale e culturale stanno dialogando e cercando una strada comune, un'alternativa al renzismo. Lei mi pare anche che abbia detto se Cofferati si candidasse per una lista, magari con sé l'alternativa Renzi, potrei starci, ho capito male? No, beh, in realtà le cose sono andate molto diversamente, nel senso che io condivido le parole di Cofferati, penso che sia un fatto gravissimo e mi sorprende che Renzi e la dirigenza del PD nazionale non abbia detto niente in questa settimana difficile. Si poteva riconoscere il risultato condannando però certi comportamenti che non sono legittimi e secondo me sono anche in alcuni casi illegali, almeno se a leggere le denunce, poi aspetteremo il lavoro evidentemente delle procure, no, che sono interessate a queste primarie. Le dicevo però che per me sulla Liguria si tratta di capire se c'è l'emergere di una lista che non necessariamente sia di estrema sinistra, ma di una lista che non condivide un sistema di potere che si è tra l'altro rappresentato perfettamente in quelle primarie. Come ormai sanno tutti, in quelle primarie il voto della destra è organizzato, non è che c'era qualche elettore di destra che ha partecipato, ci sono stati dei gazebo in cui si sono rappresentati i gruppi dirigenti della destra e la destra ha partecipato attivamente. Questa mi sembra una cosa veramente sorprendente, anche nelle dimensioni, perché poi la Paita ha vinto, ma non ha vinto come Renzi l'anno scorso, ha vinto con un margine di qualche punto percentuale, di qualche migliaio di voti. Sì, le dico l'ultima cosa, Sì, prego. Mi dica lei, no, mi dica lei, se no ci incartiamo. Parlamento lo siamo, non vorrei anche Radio 24. C'è un messaggio molto impertinente di un ascoltatore, Cristiano, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che dice, l'amletismo di Civati è uno stato d'animo sentito o è solo una patinata posa critica senza nessuno sbocco? Quando sembra sfregiare con affondi anche legittimi le misere tirannie del renzismo, poi rimette il fioretto nel fodero e torna nella mandria. Faccio un commento brevissimo a questa cosa, che purtroppo il tempo è tiranno. Ma Amleto non mi dispiace, diciamo che scegliamo generi letterari un po' più soft e magari poi facciamo un'altra cosa senza sembrare amletici. Ce lo fa sapere se fa un'altra cosa. Però le critiche così sono sempre divertenti, ringrazio l'ascoltatore. Però le dicevo che secondo me a livello nazionale si pone un problema banalmente questo: il PD è ancora un partito di centrosinistra, è un partito di centro che guarda da tutte le parti, è un partito con il segretario che ha detto alla linea tutti gli altri devono dire di sì? Queste sono le domande di questi giorni. Se le risolviamo in positivo rimango volentieri, altrimenti, come purtroppo annunciavo, faccio molta fatica. E ci sentiamo qua a Effetto Notte su Radio 24. Assolutamente, va bene? Sì, grazie mille. Grazie onorevole Civati, buona continuazione. Grazie. Alleggeriamoci col cinema. Vergine Giurata è l'unico film che parteciperà alla 65esima edizione del Festival di Berlino, che parte il 5 febbraio. Ne parliamo con Maria Rosa Mancuso. Buonasera Maria Rosa. Buonasera. Critica cinematografica del Foglio. È tratto questo Vergine Giurata da un libro che riporta una storia vera, no? Di Elvira Dones. Sì, Vergine Giurata, appunto, che è uscito da Feltrinelli, racconta la storia di queste donne albanesi che decidono, per essere libere, di rinunciare alla loro femminilità, nel senso che non si sposeranno mai, non avranno figli, e di vestirsi da uomo e di tagliarsi i capelli per poter fare le cose che fanno gli uomini. Ce ne sono ancora alcune, Elvira Dones li ha incontrate per scrivere il suo libro. La cosa curiosa è che in origine era, come dire, una regola che serviva alle famiglie che avevano che non avevano figli maschi, per avere qualcuno che potesse decidere le cose in famiglia. Quindi questa usanza nasce anticamente come proprio un modo per comportarsi da uomo essendo una donna. Quindi una storia particolare, vera, è un'opera prima di Laura Bisbury, così il nome della Bisbury della regista, opera prima con Alba Rockwacker. Dici che ha qualche speranza un film del genere? Ma io direi che è bello che rappresenti il cinema italiano finalmente una storia che non sia così, quelle storie tra camera cucina, quelle storie di precari, quelle storie adolescenziali che poi magari si protraggono fino ai 40 anni. Questa è una storia forte, è una storia non ombelicale, è una coproduzione internazionale, beh insomma c'è tutto per essere incuriositi. Del regista sentiremo parlare, ma lo capire, ma ha avuto qualche altra esperienza significativa che ti risulti o è proprio il primo tentativo? Il suo film di debutto e prima c'è stato un cortometraggio che io non ho visto, confesso. Bene, però saremo curiosi di sapere che destino avrà questo film. Intanto ci fa piacere che c'è questa opera, poi un'opera prima a Berlino per quanto riguarda il cinema italiano. Sapremo, si Maria dice Rosa. Sempre che i tedeschi non ci amano. Che i tedeschi non selezionano mai i film italiani. Cattivi tedeschi. Che i tedeschi, nella persona di Dieter Kösslich, che è il direttore della Berlinale, che è lì, insomma, da un certo numero di anni, per una volta che invece selezionano un film italiano, bisognerebbe essere contenti e felici. Siamo molto contenti, siamo contenti con te, Maria Rosa Mancuso, e poi ci dirai quando lo vedremo. Grazie intanto, buon lavoro. Ciao Maria Grazie Rosa. Grazie a voi. Ciao. Ci lasciamo adesso momentaneamente, sapete che ritorno giusto poi per ricordarvi le notizie principali del giorno.